Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per procedere nelle indagini sulla strage di San Bernardino in California, che nello scorso dicembre costò la vita a 14 persone, un giudice federale statunitense ha ordinato alla Apple di rimuovere i sistemi di criptaggio dei telefoni cellulari dei presunti responsabili. Per l'accusa, l'accesso ai dati del telefono di Syed Rizwan Farooq e delle persone con cui era in contatto riveste un'importanza decisiva per poter far luce sull'attentato. La casa produttrice del telefono, dal canto suo, ha opposto il proprio rifiuto alla richiesta del giudice. Tim Cook, l'amministratore delegato, ha parlato di precedente pericoloso e ha detto che la decisione di non collaborare con la giustizia non è stata presa alla leggera. Quindi voi mi state dicendo che... Vi sembrerà qualcosa che non appartiene al vostro privato, al vostro quotidiano? Direte che ce ne importa, se un serial killer aveva un telefonino, chissà, con qualcosa importante a definire il contesto di una strage, sono state ammazzate 14 persone in un centro poi in cui c'erano disabili, un delitto terribile e irrazionale. Per capire qualcosa di più, forse guardando nei telefonini responsabili, come guardando nel telefono di ognuno di noi, ci può essere una chiave di lettura. L'Apple dice no, non si può, nemmeno giustificato dal fatto che si fa solo su quel telefonino, non su tutti, soltanto su quello di un assassino, che fa altro un assassino che non esiste più, è morto, si fa soltanto per questa occasione importante per capire se ci sono legami, ci sono contesti, glielo chiedono gli Stati Uniti di farlo e dice no. E il CEO di Google dice sì, ha ragione, è un precedente preoccupante che qualcuno ci chieda di rivelare il segreto del confessionale. Sì, perché di questo si tratta. In tutti i romanzi d'appendice, in tutte le narrative, c'è sempre l'assassino efferrato, l'autore di delitti orribili, che lo dice in confessionale. E il prete, pur di non rivelare quel segreto sacro nel confessionale, si fa torturare, fare a pezzi, uccidere. Non lo dice, perché il segreto nel confessionale è sacro. Oggi in un momento vivacemente ispirato, perlomeno come intenzione al laicismo, abbiamo ricostruito qualcosa che assomiglia al segreto del confessionale. Per mondarsi l'anima, il credente sapeva che andando in confessionale, confessandosi comunque, la colpa gli veniva rimessa, poi i tribunali degli uomini non avevano modo di esercitare quello che era il loro giudizio secolare se lo aveva rimesso con la colpa. Oggi ognuno di noi ha un'infinità di colpe, piccole, grandi, veniali, gravissime, o relative, naturalmente relative, nel proprio telefonino. Noi dobbiamo avere la certezza che comunque nessuno ci metterà mano o occhio, a meno che noi non lo decidiamo, e questo è importante. C'è un film divertente, una commedia, che sta girando in Italia in questi giorni, che dà l'idea di questo concetto. Quindi voi mi state dicendo che nessuno di noi ha segreti? Ma magari, ci conosciamo tutti a memoria. Ok, allora facciamo un gioco. Mettiamo qua tutti i nostri cellulari. Per la durata della cena, messaggi, WhatsApp, telefonate, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no? Ora ti spiego. Ma che vuoi spiegare? Questo ha scritto "c'ho voglia di scopare". Tante volte può essere il T9. Io non voglio che finiamo come Barbie e Ken. Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese, una commediola che sta girando, però interessante, mette molte pulce nell'orecchio. Un gruppo d'amici fanno il peggiore dei giochi potranno fare, mettono i cellulari sul tavolo e dice "adesso guardiamo tutto". E lì viene fuori il fatto che certe cose non possono essere dette, vanno interpretate, contestualizzate, e poi ognuno deve avere il diritto comunque di avere la propria scatola nera, inapribile, intoccabile, inscassinabile. Potrebbe aver ucciso qualcuno, ma nessuno ha il diritto comunque di aprire la scatola nera. 800240024. Siete d'accordo? Siete dalla parte del CEO dell'Apple? La scatola nera non si apre? O pensate che comunque le scatole nere vadano aperte o per gioco o per reciproco patto di fedeltà fra amanti, fra persone che stanno assieme, come spesso accade? Io ti faccio vedere il mio, tu mi fai vedere il tuo, oppure comunque quello che una volta chiamavamo anima, che era una cosa nostra, soltanto noi e chi quell'anima in teoria aveva creato e ci aveva messo dentro, poteva metterci l'occhio, è la stessa cosa oggi al nostro cellulare. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Vi pongo un problema che in realtà ha sollevato una crisi di tipo internazionale. Tutti stanno parlando sul fatto che sia un precedente pericoloso il fatto che un giudice chieda di poter aprire il segreto di un telefono. Altri dicono che in realtà, vediamo quale sarà il vostro parere, il superiore interesse della sicurezza dei cittadini permette che cada anche questo tipo di precauzione. Siete convinti che debba esistere ormai una sorta di surrogato, non dico in termini dispregiativo, perché tale è, della nostra coscienza, della nostra anima, del nostro diritto di avere una vita segreta o avere dei segreti in cui nessuno è giusto che possa mettere occhi, o pensate che in realtà chi non ha nulla da nascondere, come tutti dicono, può tranquillamente dirlo, ma siamo sicuri che nessuno di noi abbia nulla da nascondere con nessuno? Non ne sarei poi così tanto certo. Massimo, come la pensa? Buongiorno. Buongiorno a lei. Sposto un attimino il baricentro della discussione perché ho chiamato e prenotato subito appena sentito il tema, sì, che mi aveva già colpito moltissimo, sì, su questa ipocrisia clamorosa di una ditta, chiamiamola ditta, dovevamo chiamarla dittarella, un siren server come viene definito anche oggi in questo settore di analisi di ciò che succede in rete, un mostro del genere, un mogul del genere, per ovvi motivi solo di immagine di mercato, dica pubblicamente che non è interessato a fare una mossa che scalfirebbe. Lei dice, Massimo, potranno farlo. Ma è una balla senza fine. Insieme ai servizi da decenni queste aziende, dalla connettività di base dei provider fino al singolo cellulare, e adesso per farsi belli Tim Cook ci pulisce anche, no, da questo, quando invece se esiste un motivo su cui tutti sarebbero d'accordo per andare a vedere cosa c'è in un telefonino, successe già con la Lioce, non vorrei ritirare fuori i vecchi discorsi, ma chi vuole può andare a vedere cosa è successo con la brigatista di qualche anno fa. Ecco, si ricorda lei, in questo momento mi sfugge, per capire, visto che lei è un tecnico, cosa è successo? Siamo entrati nel telefono della Lioce con un quanti anni fa è successo? E quando è successo l'assassinio sul treno, adesso non vorrei sbagliare. Sì, però ancora non esistevano i social network, non esisteva tante cose. Su questo, quindi noi ci saremmo, diciamo, guadagnati. Faccia parlare, perché l'ho fatta parlare. Oggi è qualcosa di diverso. Allora ci poteva essere l'agenda e l'elenco delle telefonate fatte e ricevute. Oggi c'è la nostra relazione in un telefono, è un po' diverso. A quel tempo non credo che esistesse nemmeno la rete o un uso diffuso della rete attraverso il telefono. Si guardava semplicemente cosa ci poteva essere. Adesso non ricordo il fatto, vado a braccio. Oggi c'è molto di più. Oggi c'è il racconto, c'è la fotocopia di tutto quello che noi facciamo, pensiamo, siamo geolocalizzati, evidentemente tutta la nostra vita. Però l'inizio della sua telefonata mi interessa molto. Lei dice, facciamo molto meglio a fare a um, come probabilmente è stato già fatto, aprirgli la porta, fargli vedere le cose e stare tutti zitti. Il gesto eclatante le fa pensare che in realtà è un'operazione di marketing, questo vorrebbe dire lei. Guardi, lo metto insieme a un altro paradosso di questo periodo che non c'entra con il tema, ma lo accenno soltanto per sottolineare la schizofrenia di questi tempi. Il petrolio crolla, il mondo è in crisi. Io vorrei... Tipo questo, scusi, no, questo non c'entra niente. Non c'entra la mazza. Sentiamo, Massimo ha parlato. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Docente di filosofia del diritto e informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Ho iniziato subito con l'ascoltatore polemico, poi aveva molte cose da dire e gran voglia di parlare. Ti pongo subito la sua provocazione. Dice, secondo lui, dice, la Apple in realtà più di una volta potrebbe aver aperto questa porta dei propri telefonini, questa volta ha fatto un'operazione eclatante perché tutti siano tranquilli che nel caso nessuno permetterà mai di entrare nel suo telefono. È giusta l'opposizione secondo te? Allora, è sicuramente una mossa di marketing, ma questo secondo me lo rende ancora più interessante, perché il business, il core business di una ditta enorme, di una società enorme come Apple, diventa la difesa dei dati dei suoi utenti, la difesa in qualche modo dei nostri diritti. È sicuramente vero che Tim Cook l'ha fatto per motivi commerciali, ma è altrettanto vero che io credo che sia la prima volta che entra in un discorso di una società quotata in borsa in maniera così esplicita, un discorso a difesa dei diritti dei suoi utenti. Io non ho ancora deciso bene se sia giusto o sbagliato in generale questo discorso, però io so che è il discorso che voglio sentirmi fare da coloro che mi vendono gli strumenti nei quali io memorizzo la mia vita, perché è questo il punto, no? Il caso della Lioce di qualche anno fa, e lo ricordo bene, a parte il fatto che c'erano pochissimi dati all'interno di questi... Faccia ridere rispetto oggi. No, non erano crittografati soprattutto, perché se fossero stati crittografati eravamo lì ancora con una crittografia asimmetrica, eravamo ancora lì adesso... Era il 2003, nel 2003 eravamo ancora abbastanza indietro. indietro. Non esistevano indietro, i social network. Ma soprattutto no, teniamo conto che le persone non avevano ancora capito l'importanza della crittografia. La cosa interessante che ha fatto con gli ultimi sviluppi del suo sistema operativo Apple è stato mettere unicamente in mano dell'utente la possibilità di avere le chiavi per vedere i dati che ha memorizzato. E questo è fondamentale, perché neppure Apple può andare a vedere i dati che io ho memorizzato nel mio cellulare e nei suoi server. Questo è un passo in avanti incredibile. Quello che chiede l'FBI alla Apple è di costruire un sistema operativo che contenga di per sé una backdoor, cosa per la quale, secondo me, giustamente, Tim Cook si è opposto. Perché una volta che si è fatto una volta questa cosa, non ci sono altri motivi per cui lo stesso atto non verrà ripetuto all'infinito. E diciamo che questa cosa può essere fatta solo dall'Apple. Questa cosa può essere fatta solo dalla Apple, cioè ragionevolmente può essere fatta solo dalla Apple, perché è l'unica ad avere la conoscenza tecnica in grado di aggirare il sistema che essa stessa ha messo in piedi per garantire i dati dei suoi utenti, sicuramente, questo sì. Poi magari può farlo qualcun altro, insomma, se io ho svariati milioni di euro da investire e molte persone in gamba, probabilmente ce la posso fare ad aggirare questa cosa, però è un procedimento non facile, perché si tratta di riscrivere completamente il sistema operativo, di fare in modo che il sistema operativo riscritto sostituisca il sistema operativo vecchio, quindi un'operazione davvero estremamente complicata. Quindi dovrei fare un upgrade di tutti gli iPhone dicendo pigliatevi sta roba, significa aprirvi il chiavistello dietro. No, attenzione, l'FBI ha chiesto che in realtà il sistema fosse realizzato per funzionare unicamente sul cellulare che hanno sequestrato. Sì, boom. E questo è il punto, no? È chiaro che io posso fare un sistema del genere, ma anche Volta che ce l'hanno, secondo te, invece, figurati, esatto, non lo usano. È proprio questo il punto, no, della cosa, perché insomma Tim Cook dice è vero, io posso riuscire a fare questa cosa, però a quel punto io da quel momento in avanti non sono più in grado di garantire la sicurezza dei dati dei miei utenti. Anche qui Tim Cook si rende conto che nel futuro probabilmente le persone saranno disposte a spendere delle cifre magari anche elevate per vedere protetti i propri dati. Ti posso fare un paragone, vediamo se regge, così faccio capire agli ascoltatori. È come se il capo della polizia in Italia, anzi no, un alto magistrato, chiedesse al Papa in maniera riservata, cioè guarda, metti un microfono nel confessionale ogni volta si va a confessare il capo mafia, perché almeno soltanto per lui naturalmente, me lo metti in rete, riesco a capire se confessa o se confessando mi dice la chiave di alcuni delitti. Il Papa potrebbe dire sì, ma se lo faccio una volta significa che poi dopo me lo chiederai per tutti i confessionali, e quindi cade il principio del segreto nel confessionale. Ma l'esempio a me sembra davvero molto molto calzante, insomma, perché appunto io al cellulare affido e agli strumenti che usualmente affido interi pezzi della mia esistenza. Il film che tu citavi all'inizio ha un pezzo divertente in cui dice che ognuno di noi ha tre vite, no? Una vita pubblica, una vita privata e una vita segreta. Ecco, in qualche modo ognuno di noi ha delle cose che tiene segrete a tutti, insomma, o che comunque vuole rivelare semplicemente a un piccolo gruppo di persone. E io credo che il comportamento di Apple in questo contesto sia davvero adeguato alle tecnologie alle quali ci troviamo davanti. Sentiamo qualche ascoltatore. 800 24 00 24, siete d'accordo tenere duro perché si mantenga comunque anche nella digitalizzazione della nostra coscienza l'area segreta che sempre ha avuto diritto di avere ogni essere umano? Riccardo, buongiorno. Ma siamo così sicuri che questi dati realmente la Apple o chi per esso non li sfrutti già per i propri comodi? Siamo così sicuri che il prete a cui ci confessiamo torna a casa, si tromba la perpetua, non glielo racconta? No, nessuno ha certezza, penso sicuramente. Andrea Rossetti, si fa avere la certezza? La certezza assoluta ovviamente non ce l'abbiamo, ripeto, però da System 8 in avanti o giù di lì, insomma, il sistema operativo di Apple è fatto in maniera tale per cui i dati vengono crittografati con chiavi e con un sistema che non è accessibile all'Apple stessa, di modo che se io mi dimentico la password, neppure io il proprietario del cellulare, dimentico la password, vado dal signor Apple per sbloccare il cellulare, per ribeccare i miei dati, non posso farlo. Oddio, questo è una strategia per farti comprare un altro telefono. Non ho capito. Potrebbe essere una strategia per farti comprare un altro telefono. Dietro, no, puoi resettarlo, no, semplicemente puoi resettarlo, però quello che è messo dentro cancelli tutti i dati. Per il momento in cui perdi quelle password, allora poi uno può sostenere che Apple ha già messo una backdoor, no, una maniera di entrare, per carità, uno può sostenere tutto quello che vuole, però il prodotto viene venduto in questa maniera, insomma. Poi sentiremo un tecnico che ci darà anche delle spiegazioni tecniche, questo quello vogliono ascoltare. Mario, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo solo dire che la privacy è sicuramente una cosa molto importante, però dovrebbe esistere un ente, chiamatelo FBI, chiamatelo come volete, super partis, con magari più porte di accesso, che abbia la possibilità, perché se questo può essere un mezzo per scoprire un delitto, per scoprire un matto, per scoprire un maniaco, perché non dobbiamo approfittare di questa possibilità? Lei però esattamente ammette il Grande Fratello, tutto quello di cui noi temiamo. L'ente superiore, super partes, non esiste da quando esiste l'umanità. L'FBI risponde comunque a un potere governativo, risponde a un potere politico, risponde comunque a qualcuno che potrebbe avere l'interesse di gestire tutti i cittadini. Se qualcuno ha la chiave di tutte le coscienze, è il panopticon, è quello che guarda tutto e senza essere visto. Andrea Rossetti. No, è proprio questo il punto, non riesco a mettere un limite, questo è il punto, non nel momento in cui io violo una volta la riservatezza ci saranno dei buoni motivi per continuare a violarla. E questa è l'idea di base del Grande Fratello. È una bella idea quella di avere un'autorità super parte, ma non un'autorità esiste. Super parte è fatta da persone, peraltro, no? A questo punto chi garantisce il fatto che loro effettivamente usino correttamente le informazioni di cui vengono a conoscenza? Chi custodisce i custodi? Beh, le utopie, la Repubblica dei filosofi, quelli che chiaro, hanno. No, ma non esiste, è mai esistito. Dal momento che per quanto i filosofi siano saggi, io lo so per esperienza personale, ovviamente, non mi affiderei comunque a nessuno, non affiderei comunque a nessuno, veramente i miei segreti più intimi, perché il punto è questo: in questi strumenti che sono estensione della nostra memoria, noi mettiamo cose veramente molto intime, no? Veramente che non, forse in passato non avremmo neppure scritto nel nostro diario personale segreto. Sì, anche perché come in un passaggio fondamentale di Pulp Fiction, con un saldatore e un paio di tenaglie si possono fare molte cose. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Melog. Cronache meridiane. .800 24 0024, vedo che il nostro pubblico è un pubblico molto informaticamente presuntuoso. Dicono, ecco, parlate, ognuno può fare la jailbreak del proprio cellulare, sì, del proprio, non di quello di un altro. Se è protetto da password e non c'è niente da fare, questa è la difficoltà. Mi sembra che in realtà questa mattina, più che interessati comunque alla salvaguardia dei propri dati personali, della propria vita segreta, che tutti noi abbiamo e abbiamo percezione di averla dal momento in cui qualcuno la mette a repentaglio dicendo ti apro il telefono e guardo che c'è dentro, noi ci rendiamo conto che abbiamo una vita segreta. Non ce ne rendevamo conto, non lo sappiamo, pensiamo che sia indifferente comunque tutto quello che noi lasciamo appeso da qualche parte. Il film di Paolo Genovese dimostra che non è così. Ci si rende conto in un gesto apparentemente innocuo, ognuno pensa di avere nulla da nascondere, ma se chiunque ti guarda, quello che tu ogni giorno annoti, dove vai, quello che fai, i tuoi pensieri, al di fuori del contesto e la collocazione in cui soltanto te puoi metterlo, perché tu hai tutti i rimandi, tutti i riferimenti, tutti i piani di lettura possibili, può diventare qualcosa di devastante. Se devastante sul piano dei rapporti personali, sentimentali, di frequentazione, di amicizia, pensate quanto può esserlo pernicioso sul piano del diritto penale, della possibilità di aver compiuto un delitto, pensate quanto potrebbe essere rischioso per voi. Vorrei allargare questa mattina, visto che siete così interessati, proprio questo aspetto tecnologico. Rimane sempre ospite il professor Andrea Rossetti, che ricordo che è esperto è professore di filosofia del diritto e di informatica giuridica alla Bicocca, ma vorrei a questo punto introdurre Paolo Dal Checco. Buongiorno. Buongiorno. Consulente informatico forense, esperto in indagini su computer e cellulari, lavora per lo studio associato Digital Forensics Bureau di Torino. Vediamo di far capire esattamente cosa si chiede, perché tutti pensano che sia una cosa che banalmente chiunque può fare su un telefono. Non mi sembra che sia una questione invece secondaria capire quello che l'FBI ha chiesto appunto alla Apple. Certamente, non è affatto facile, ma possiamo anticipare che è fattibile, quindi la risposta è dovuta ad un diniego più formale che tecnico. Quello che è stato chiesto dall'FBI, che oltretutto è visibile in un documento che è trapelato online, sono tre semplici punti. La creazione, allora, consiste nella creazione di un sistema da caricare sull'iPhone, quindi un programma, diciamo, che deve andare a sostituire la versione presente del sistema operativo, quindi un pochino come se facessero una versione modificata di Windows. Si sovrascrive al sistema operativo. Esatto, e già quindi lo forza, trova dei punti per forzarlo. Sì, loro ce l'hanno questi punti. In realtà vengono forzati tutte le volte che voi fate, noi facciamo un aggiornamento del nostro iPhone. Tutte le volte in cui lo aggiorniamo stiamo forzando un aggiornamento del sistema. Quindi la backdoor già esiste, la porta dietro per entrare. Sì, esatto, è una backdoor che però è lecita, nel senso che permette l'aggiornamento del sistema. I dati non li va a toccare e non li va neanche a leggere in realtà, quindi sono comunque sicuri. Quindi questo aggiornamento che viene richiesto però è un po' particolare, perché deve ammorbidire alcuni sistemi di sicurezza che invece negli altri sistemi operativi di Apple sono stati inseriti. Per esempio il fatto che dopo alcuni tentativi di inserimento della password, come tutti quelli che hanno un iPhone sanno, il dispositivo si blocca, comincia ad inserire dei ritardi tra un inserimento e l'altro finché si blocca, e se l'utente lo ha programmato si cancella dopo 10 tentativi, per cui è impossibile recuperare il contenuto. E quindi poi dovrebbe cominciare a generare delle password finché non trovano quella giusta. Esatto, una volta fermata questa sicurezza, tolto questo sistema di sicurezza. Sì, l'FBI vuole arrivare lì, vuole poter provare tutte le password possibili, in modo ovviamente veloce. Quindi la seconda cosa che chiede è, non vogliamo digitarle a mano queste password e questi PIN, vogliamo poterli inserire in automatico. Un generatore di password. Un generatore, sì. Esatto, un generatore che si finge una tastiera ma in realtà sta scrivendo in automatico. Ecco, in teoria, vediamo, ammettiamo che possa avere rassicurazioni formali Tim Cook che l'FBI lo fa soltanto su quel telefono, soltanto con la persona. Materialmente, anche se il termine materialmente non è quello esatto, dovrebbe consegnare a questi signori un software, qualcosa per lavorare su quel telefono, che non credo che il telefono possa uscire dal luogo segreto, il luogo riservato tiene l'FBI. Quindi l'FBI comunque avrebbe un'applicazione, avrebbe del codice da poter mettere in quel telefono. Cosa permette di dare la sicurezza che lo usano soltanto per quel telefono? Una volta che ce l'hanno dico, guarda che bello, che figata, ce lo teniamo e ogni volta che ne abbiamo bisogno lo ributtiamo dentro. È purtroppo nulla, nel senso che sicuramente Apple inserirebbe nel codice un controllo che verifichi che il sistema stia funzionando soltanto sul dispositivo autorizzato, ma come tutti ben sappiamo ci sono tante persone, comprese anche ragazzini, che si mettono a lavorare sui software e riescono a sbloccare quel piccolo check di controllo che in questo caso farebbe sì che nessuno potesse utilizzare. Diciamo che più è fatto, una volta rotto l'argine, poi è una stupidaggine, è molto meno impossibile per un esterno riuscire anche a chiudere questo sistema, quest'ultimo sistema di sicurezza e metterlo dove uno vuole. È come quando uno usa del software tarocco e sa benissimo qual è la maniera per craccare il software, perché in rete ci sono i codici, la stessa cosa più o meno. Più o meno sì, diciamo che in realtà un esterno non dovrebbe mai entrare in possesso di questo codice, che comunque rimarrebbe in possesso dell'FBI. Il problema è che l'FBI stesso potrebbe magari in casi particolari poter essere invogliato a tentare di sbloccarlo, oppure se questo codice trapelasse all'esterno ci sarebbe la gara al primo che riesce a sbloccarlo e farlo funzionare su qualunque iPhone, e a questo punto chiunque potrebbe sbloccare degli iPhone in tempi ragionevoli, come in realtà già si può fare per le versioni degli iPhone un pochettino più vecchie. Quindi in realtà non stiamo parlando di fantascienza, già si poteva fare fino a qualche mese fa, forse un anno fa. Poi Apple nelle ultime versioni ha robustito i controlli impedendo le varie backdoor, bloccando le varie backdoor che esistevano e che non avevano inserito loro, erano diciamo degli errori che erano stati sfruttati. Andrea Rossetti ci sta dicendo, Paolo Dal Checco, degli elementi interessanti. È qualcosa che appartiene proprio alle ultime versioni delle nostre scatole nere, questo tipo di sicurezza. Da System 8 in avanti, come dicevo prima, quindi da una penultima versione del sistema operativo, e peraltro appunto è una cosa che è legata a un sistema come il sistema operativo di Apple. Tutti coloro che hanno sistemi Android, se non hanno implementato loro qualche particolare sistema di sicurezza, queste garanzie non le hanno. Ecco perché è un'abile mossa di marketing. Beh, è abilissima. Cook, no? È quello che stavo dicendo, scusa, l'altra metà della luna, più o meno sono metà e metà. Quelli che hanno Android in realtà sono i figli di nessuno a questo punto di vista. Noi stiamo parlando soltanto per quelli che hanno l'iPhone, per gli altri il problema non si pone, perché può metterci le mani e entrarci chiunque. È enorme, perché il fatturato di Apple è enorme, no? Si contende con Google il primato per il capitale ammassato, che si oppone esplicitamente alle richieste del suo governo, peraltro, no? Quindi non del governo di uno stato secondario, di uno stato minore, insomma, ma il suo governo gli chiede di fare una cosa e questo in nome della privacy degli utenti si oppone. Bisogna anche tenere presente lo sfondo culturale, l'idea di privacy in America è molto diversa rispetto in Italia, per gli americani la privacy è soprattutto la sicurezza che lo Stato non metta il naso nei miei dati, mentre a noi la privacy è soprattutto vissuta come qualcosa nei confronti di coloro che raccolgono appunto i nostri dati personali, le ricerche punti, queste cose. Là invece la privacy è vissuta proprio come il mantenere fuori dalla mia vita privata lo Stato. È quindi chiaro che secondo me un discorso come quello di Tim Cook in un contesto come quello americano avrà secondo me molta presa sulle persone. È una botta formidabile. Adesso che sto capendo meglio dagli esperti, mi rendo conto da un punto di vista di marketing strategico è formidabile. Dice: noi rispetto agli altri teniamo duro, fate come volete, ma vedete, con il nostro comunque nessuno entra. Sentiamo qualche ascoltatore. Gigi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Condivido perfettamente tutte le riflessioni fatte sulla privacy. Mi è piaciuto molto l'esempio del sacerdote, del dovere sacro di rispettare il segreto del confessionale. Però mi sto chiedendo, io non ho una risposta a questa domanda, ma se il sacerdote del confessionale che sta confessando gli dice che è pianificato per il giorno dopo un attentato di mettere una bomba in cui moriranno migliaia di persone, il sacerdote che deve fare? Deve passare la notte nell'angoscia, deve mordersi le mani, ma non può vedere meno al segreto? O c'è una qualche eccezione a questo? Quindi voglio dire, dovrebbe sentire un esperto di diritto canonico. Non so se in questo. Io penso che il segreto confessionale sta alla coscienza del sacerdote. Evidentemente si chiama segreto per questo. Poi chiaramente a tutto c'è una mediazione. Io penso che grossissimi affari, grossissime dritte sul piano economico del profitto siano molto passate per i confessionali, perché sono lì come cattiverie. Sentiamo Stefano, buongiorno. Stefano? Sì, pronto? Sì, ascolto. Un momento che tolgo. Sì, no, allora mentre toglie sento Fabio. Fabio, buongiorno. Dovete farvi trovare pronti. Farvi trovare pronti. Fabio. Eccomi, buongiorno. Sì. Questo è un tema ricorrente. A parer mio è il tema della contemporaneità, è il tema della contemporaneità, certo. Il è già vero capitato tema. Anche con Google e Google in passato anche lei si è opposta. Io credo che sia una sorta di doubt test, nel senso che secondo me Apple fornirà quella chiave, probabilmente in cambio ha chiesto di poter assumere un atteggiamento pubblico invece contrario a questa richiesta, perché a parer mio esiste una ragione di Stato che deve prevalere su quelle che sono le logiche, diciamo così, di riservatezza. Le dice Fabio, il telefonino ce l'ha già in mano Tim Cook, ha dato assicurazioni, già se l'è tradotto, gli ha dato la trascrizione, il log, tutto quello che c'è dentro, dice però lasciateci tenere questa posizione. Rossetti, la vedi possibile questa ipotesi? Ma tutto è possibile, però qui siamo un po' nel campo del complottismo. Certo, il complottismo puro. Mi sembra che tutto sommato, proprio dal punto di vista del business, qui non di grandi principi, in questo momento ad Apple convenga di più non dare, mantenere questa posizione dura nei confronti del governo americano piuttosto che cedere, sia direttamente che indirettamente. Guarda, perché se lo dà il sistema operativo tempo, qualche mese, qualche settimana, addirittura qualche giorno, la cosa si risa, viene risaputa. Assolutamente. No, non riesco davvero a tenere segreto una cosa del genere. Del Checco ci ha detto che già in rete c'è la richiesta di questo tipo di operazione, già circola in rete, dovrebbe essere un documento strariservato, quindi figurati, lo saprebbero tutti e sarebbe un boomerang che non potrebbe più reggere. Fermiamoci un istante, tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sì. La sto ascoltando. Mi sto ascoltando bene? No, quello che volevo dire semplicemente è questo: la questione è economica, cioè sappiamo bene che Tim Cook, come Google, come Facebook, tutti hanno già i nostri dati e già li usano a fini economici, li vendono a chi ci vende a chi ci mette la pubblicità sul nostro smartphone, che è personalizzata. Secondo me è tutta qui la questione. Loro vogliono mantenere questa sicurezza per poter vendere i nostri dati al miglior offerente, e avere dei dati nostri in esclusiva vale sicuramente molto di più di avere dei dati pubblici. Lei dice che comunque hanno la decodifica totale, tutto quello che noi mettiamo nel telefono. li usano però in maniera che noi non ce ne accorgiamo, magari, ne so, vendendo i nostri profili a chi ci fa delle offerte commerciali. Vende i nostri dati. Google già lo fa con i Google Awards, Google manda le pubblicità personalizzate a seconda di quello che tu fai. Sì, il mio telefono sa che sto andando a casa. Sì, però sono io, che faccio delle ricerche, quindi evidentemente consapevolmente so, perché ho accettato una convenzione con il motore di ricerca che uso, quindi mi fa comodo che quello che ricerco però magari può essere anche venduto a altri. Andrea Rossetti, ho detto una boiata? Questo è il punto, no, esatto, se si leggessero i termini d'uso che tutti noi mettiamo senza fare attenzione, in realtà si vedrebbero esattamente quali sono gli usi che si riservano di fare ai nostri dati le grandi ditte. A Google non interessano, via WhatsApp non interessano tanto i dati di Andrea Rossetti, interessano i dati dei cinquantenni con un certo reddito che abitano a Milano. Quindi io a Google, in tutto sommato, non mi interessa, a Google non interessa individuare colui che ha l'individuo specifico, ma la categoria. In questo senso è vero che i nostri dati vengono trattati, ma molto probabilmente sono trattati in maniera anonima. Dico molto probabilmente perché è chiaro che noi qui ci fidiamo. No, qui c'è dietro un'altra grande idea che fa parte del patrimonio delle ditte e del rapporto che le ditte americane hanno con i clienti, il trust, la fiducia. Io mi fido di Google, mi fido di Apple, fino a prova contraria ovviamente. E se poi io posso dimostrare che tu hai usato illecitamente i miei dati, allora ti trascino in tribunale e ti spendo un sacco di soldi, ti porto via un sacco di soldi. Però il trust, la fiducia in quello che fanno le ditte a cui, alle società a cui noi diamo i dati è fondamentale, è un concetto fondamentale proprio del diritto americano. Cioè, ci illumina un ascoltatore che probabilmente ha studiato più di noi in questo termine. In questo caso dice, nel caso del prete del confessionale proposto all'ascoltatore, il prete può svelare il peccato, può dire ci sarà un attentato in quella piazza, quello non deve fare, non deve dire chi gliel'ha detto, questo è fatto, chi sarà, però può dire che se la vita delle altre è messa a repentaglio, che è un caso, di solito la gente va a confessare le cose quando l'ha già fatte, non quando deve farle. Vediamo qualche altro punto tecnico con Paolo Dal Chicco, che è un consulente informatico che è proprio esperto in questo tema qua. Questo cosa facciamo una previsione per il futuro. Questo cosa determinerà? Avremo un rilevamento oggettivo da qui alle prossime uscite dei nuovi modelli della Apple. Una maggiore fiducia verso quel prodotto, se loro tengono duro, se loro mantengono questa sorta di eroica verginità anche di fronte all'autorità, rafforzeranno molto il loro brand, secondo lei, una sua valutazione? Beh, secondo me sì, perché punteranno moltissimo su questa loro posizione votata alla sicurezza, quindi dal punto di vista del brand ne usciranno sicuramente bene. Credo che però il problema sarà che, in base a quello che verrà deciso in questo contesto, si dovranno prendere anche tante altre decisioni. Ad esempio, anche i computer Apple hanno la cifratura, la differenza è che è l'utente che la può abilitare quando gli serve, mentre sull'iPhone l'utente non lo sa, ma i dati sono tutti criptati. Anche i PC con Windows tramite BitLocker possono essere abilitati in modalità encryption. Anche gli Android, e prima parlavate di Android, che è una categoria, diciamo, considerata, non dico di secondo livello, perché non hanno un brand dietro che lo supporta, come fa Apple con i suoi iPhone, però anche Android può cifrare i dispositivi. Se voi anche Google Chrome uno può metterci navigazione segreta, se vuole. Sì, anche se in realtà caso fino a un certo punto è una buona finta, non sì, è davvero infatti segreta. Però c'è l'omino con gli occhiali da spia che uno è più rassicurato. Un'altra cosa, mi scusi. Uno mi dice, il governo americano non ammette che vengano acquistate apparecchiature telefoniche cinesi, ben sapendo che questa roba cinese in realtà è esposta a una violazione dei servizi molto più facilmente rispetto a prodotti autarchici nazionali. È vero che la roba cinese in realtà è più violabile, io la pongo come è stata scritta e non è che entro in merito. Sì, più violabile potrebbe essere stata violata alla base, quindi ci sono alcune marche cinesi che non cito, che sono considerate sospette perché non è escluso che noi non ce ne accorgiamo, ma al di sotto stanno facendo delle cose. Ma sono componenti o sono prodotti finiti? Prodotti finiti, per esempio dei router, dei wifi, persino dei cellulari. Che non sappiamo sotto bene, ma qualcuno potrebbe, diciamo, vendersi anche il tappo della vasca da bagno del nostro telefono, ecco. Esatto, quindi l'affermazione è sostanzialmente vera. Fabrizio, ma abbiamo un pubblico molto informato, mi fa piacere. Fabrizio, buongiorno. No, non c'è Fabrizio, è caduto. Allora andiamo avanti con Andrea Rossetti. Vediamo di fare una valutazione sul momento che stiamo vivendo e che stiamo raccontando in questo momento, Andrea. Abbiamo parlato di emancipazione digitale, abbiamo parlato di digitalizzazione anche non soltanto dei beni materiali, ma anche dei beni interiori, in questo momento mi sembra che siamo a un punto di scrimine fondamentale, anzi un passaggio epocale. Sul braccio di ferro, che giustamente è molto ispirato, l'abbiamo capito, da motivi commerciali, che va ben, che è soltanto la punta di un iceberg che in realtà ci pone dei problemi rispetto alla sicurezza e rispetto alla fiducia cieca che diamo agli oggetti a cui affidiamo la nostra vita interiore e i nostri segreti, però su questo braccio di ferro si scrive comunque un nuovo patto che in qualche maniera, con tutti i dubbi che possiamo avere, è un patto fondamentale. Ah beh, indubbiamente, e soprattutto ci dovrebbe portare a coscienza il fatto che innanzitutto la privacy e la sicurezza dei nostri dati non è una situazione ma è un processo, quindi è qualcosa da tenere sempre sotto controllo, e soprattutto ci dovrebbe rendere consapevoli del fatto che la sicurezza dei nostri dati è soprattutto, in primo luogo, responsabilità nostra, perché come giustamente diceva Paolo Dal Checco prima, anche un sistema Android, anche Windows, anche Apple sui computer fissi o portati, insomma, ha la possibilità di generare una sicurezza molto elevata, ma molte persone non lo fanno perché non lo sanno. Allora, per adesso ci è andata bene perché Tim Cook, anche qui, come ha detto, per i suoi motivi, però ci sta difendendo un principio fondamentale, io credo, dei sistemi democratici come il nostro. Però non possiamo sperare che in futuro continui ad essere così, e quindi dobbiamo essere sempre più consapevoli degli strumenti che ci permettono di creare privacy sui nostri dati. Le polizie di tutto il mondo non vogliono questo. In Inghilterra c'è una legge che ha reso un atto illecito il rifiutarsi di dire alla polizia le proprie password. Cioè, negli Stati Uniti, in Inghilterra, se mi arrestano e io ho il computer con la password oppure un pezzo del mio hard disk cifrato, non puoi negare di aprire. Cioè, il negare è lo stesso un atto illecito. Cioè, dammi le chiavi del tuo Facebook e tu non gliele dai. No, sono inquisito per un altro atto illecito, che è quello di non avere la propria password. Le polizie di tutto il mondo sono terrorizzate dall'idea di non poter andare a frugare in questi dati. Peraltro, un po' lasciando perdere, insomma, il tipo di indagini non digitali, diciamo così, che si facevano fino a 15-20 anni fa, insomma, le normali indagini. Molto spesso le polizie e i servizi segreti trovano più semplice utilizzare strumenti tecnologici, dimenticando invece strumenti tradizionali. Non dimentichiamo che i grandi attentati, comunque terroristici, prima di tutto quello delle due torri, è stato fatto praticamente senza usare tecnologia. Con un taglierino. Grazie Andrea Rossetti, grazie Del Checco, ci sentiamo alla prossima.